Che cos'è la violenza per te? Per me la violenza è quando una persona fa delle cose brutte a un'altra persona senza pensare. Per me invece la è quando una persona fa delle cose brutte e non fa delle cose brutte a un'altra persona. Secondo me la è quando una persona picchia un'altra persona anche senza motivo. Per me la è quando una persona picchia una persona senza un preciso motivo. Secondo me è quando una persona o un gruppo di persone fanno male a una persona o un gruppo di persone anche per motivazioni ingiuste. Secondo me la è una persona che picchia altre persone senza un motivo. Secondo me è un atto sbagliato cioè, non c'è un motivo per compiere la violenza, magari cioè, per la rabbia e basta. È una persona che fa male a un'altra persona senza motivo. Per me la è quando qualcuno fa del male senza pensare. Per me la è quando una persona, un maschio e una femmina, picchiano altre persone. Secondo me, è un atto ingiusto che coinvolge un pochettino generalmente anche i bambini in certi versi e far male ad altri senza alcun motivo fa proprio restare di stucco. Per me la è una persona o più persone, che sia maschio o femmina, che picchiano un'altra persona ingiustamente. Per me è una brutta cosa. Idem. Per me la è quando ti scateni contro delle persone buone, gentili, quando se ne approfittano di te. Secondo me la non è solo p*** le persone, ma è anche tipo con le parole. Poi anche. Cioè puoi fare anche male, quindi è anche quella lì, secondo me anche. Secondo me la p*** è una cosa orrenda, inguardabile, in poche parole è una cosa bruttissima. Secondo me è una cosa brutta. Idem. Secondo me la violenza è dolore, ma non per mia sorella. Per me, boh. Per me è quando mio fratello. Per me la violenza è una cosa brutta perché quando le persone si scatenano con delle persone innocenti. Per me la violenza è una cosa bruttissima. Per me la violenza è una cosa molto brutta che non dovrebbe esistere. Secondo me la violenza è quando una persona ti oppure ti può fare del. Per me è quando una persona ti offende e ti. Per me la violenza è come un segno di non rispetto e non si dovrebbe fare comunque. Allora, per me la violenza è e non si dovrebbe fare. Per me la violenza è tipo darsi a b***e, eccetera. Poi la b***a è quando tipo qualcuno con altro e tipo si fanno. Per me la violenza è quando ci si p***a perché quando si è arrabbiati per avere tipo vendetta. Per me la è b***e e b***e, anche se delle volte io. di zampe gatto. La secondo me offendere sia in parole sia con il corpo, e quindi non bisogna farlo, perché se qualcuno lo facesse a te non credo che saresti felice, e invece se tu lo fai a qualcun altro magari neanche lui è felice. La secondo me potrebbe essere anche offendendo proprio una persona o anche farsi delle e niente. Per me è molto forte. E alcune volte anche tipo non avere rispetto degli altri, cioè in alcune cose non avere rispetto. Per me la c***a è sia di parole sia di corpo. Secondo me il contrario di c***a è la pace. Per me è la pace e è la pace. Per me è il contrario di la pace, perché quando si fa pace tutto si sistema e si ritorna amici. Per me il contrario è anche per me è la pace e il contrario è la pace. E per me anche il contrario è la pace. Pace. È la pace per me e niente. Secondo me è la pace e lo stare tutti insieme. Anche per me è la pace. Anche per me è la pace. Il contrario della c***a secondo me non è essere felici, è dare agli altri qualcosa che gli piace e quindi non qualcosa che non vorrebbero fare, che cioè non vorrebbero che fosse fatto a loro, cioè, e quindi se tu dai a qualcun altro qualcosa che a te piacerebbe che ti facessero, secondo me quello è il contrario della secondo me la felicità. È una cosa molto bella, perché alla fine la felicità è quando tipo stavi litigando e dopo fai pace e ti senti molto meglio. Per me la felicità è la pace. La felicità perché stai bene con tutti, e la pace tipo con quello che hai litigato dopo diventi nuovo suo amico. Per me la felicità è stare bene con gli altri. Secondo me la felicità è quando puoi fare tutto quello che vuoi e essere felice con gli altri compagni. Per me la felicità è quando sono tutti felici. Per me è la felicità quando si è tranquilli, comunque di... tranquilli, non lo so. Secondo me il contrario è la pace, e quando si fa la pace è tutto sistemato, è tutto per il meglio. Per me è la felicità, tipo ti diverti a fare una cosa e poi sei felice. Per me è tipo la felicità e la pace. Per me la felicità è quando sei contento tipo di aver fatto pace con un tuo amico. La felicità è quando nei miei giochini, nei videogiochi, faccio una vittoria e mi metto a fare il capriole per felicità. Pace e amore, pace e amore, formaggio a colazione. Il contrario della e grande amore e rispetto verso gli altri. Il contrario della gentilezza. Gentilezza anche per me. Secondo me il contrario della è la gentilezza, la simpaticità, a parte prima mia sorella sempre. Anch'io pace amore, pace amore. Quando non picchio mio fratello. No. Per me il contrario della cioè l'amicizia, la gentilezza è una cosa bella. Per me il contrario della è l'amore. Per me il contrario della è andare di comune accordo. Per me il contrario della violenza, la gentilezza è l'amore. Secondo me è che è tipo una persona che non proprio che può essere anche arrabbiata, però non fa del male e non fa del male e quindi come se fosse buona. Secondo me quando una persona è comunque arrabbiata con un'altra, però usa le parole invece che essere manesco. Per me quando una persona è arrabbiata con un'altra, però invece di usare le mani usa le parole, magari si confrontano se c'è qualcosa di tipo un'idea che non riescono a scegliere, quindi basta. Secondo me il contrario della è una persona che quando è arrabbiata o sfoga la sua ira non la fa usando le mani, facendo il male alle persone, ma per esempio si mette d'accordo con la persona con cui ha litigato, oppure era arrabbiato, oppure fanno pace ma senza farsi male, senza odio. Per me la è una generosità che una persona dà a un'altra persona. Secondo me il contrario di è la discussione. Quando uno, al posto che arrabbiarsi e usare le mani, usa le parole e si sfoga. Secondo me la è quando due persone litigano, cioè però non si fanno male, ma fanno pace parlando e discutendo. Secondo me il contrario della è quando una persona, anche se arrabbiata, non fa del male ma discute. Secondo me la è il contrario della è quando una persona è arrabbiata ma si tiene tutto dentro. Secondo me il contrario di è una persona che ha un forte autocontrollo e riesce a controllare la sua forza senza picchiare gli altri. Secondo me il contrario di non è quando si picchia qualcuno, ma quando magari si offende lo stesso, però almeno non con le mani, con le parole. Secondo me il contrario della è quando uno non si sfoga picchiando un'altra persona. Ti fa paura la A me un po' sì, perché cioè in realtà dipende. Se mi devo picchiare con mio fratello non molto, però in generale sì. A me la fa un po' paura perché è senza motivo e poi non possono succedere cose gravi, tipo ti puoi rompere un osso o puoi farti seriamente male. A me la fa paura perché se magari tu sei arrabbiato anche tu con quella persona ma non vuoi fargli del male, ma lui ti vuol fare del male, rischi di farti seriamente male e di portare ferite, quindi a me fa paura. A me fa paura la perché potresti durante una lotta, fra due persone farti molto male. Beh, la c***a in molti casi mi fa paura, però la c***a quella un po' superficiale, cioè quando si discute, magari scappa qualcosa, non è tanto doloroso, però comunque la c***a sì, mi fa paura. A me fa abbastanza paura, soprattutto perché non ha un motivo e poi certe volte anche persone che non sono coinvolte potrebbero farsi male. A me un po' fa paura la perché quando una persona è arrabbiata potrebbe fare comunque molto male. A me fa paura la perché devi stare attenta se qualcuno ti picchia perché ce l'ha con te e quindi devi stare allerta. Secondo me la cambia di caso in caso, perché se tipo quella con quella distratta, si intende quella con le pistole e tutto, un pochettino potrebbe far paura sinceramente, ma se invece proprio pugni, quelli si possono schivare, quindi non è che faccia paura. Per fortuna non mi è mai capitato, però se mi capita credo che mi farebbe molta paura. Molta paura. Io ho paura perché mi potrei fare davvero male. A me la fa paura perché ci si potrebbe anche fare molto male e anche per certe volte anche per senza motivo. A te mai capitato di agire in modo... Allora, a me non proprio, cioè non sono un tipo che proprio se la va a cercare, però qualche volta devo regolarmi. Per quello che mi ricordo io, mi sembra solo una volta che con una persona avevamo discusso e allora lei mi ha tirato una pacca e ho visto che ero arrabbiato, l'ho rifatto. Però la maggior parte delle volte non mi capita, di solito risolvo tutto con le parole, solo quando proprio sono molto molto molto arrabbiato. A me qualche volta mi sfugge, però sono quando sono infuriato, perché non mi va di farlo a sproposito. Ma qualche volta qualche pacchettino esce, ma solo quando sono davvero arrabbiato, perché io in genere non voglio fare del male a nessuno e non, cioè, è una cosa brutta, lo so, e l'ho provato anche qualche volta. A me non mi è mai successo perché voglio risolvere le soluzioni discutendo e parlando. E al massimo, se sono davvero molto arrabbiata, potrei usare la... A me non è mai successo, però perché so che magari è brutto e perché voglio risolvere le cose con le parole. A me è successo una volta perché quando uno mi picchia, io rispondo e quindi mi vorrei calmare un poco. A me fondamentalmente, a me non mi è mai capitato in nessuno dei due versi, né di colpire qualcuno, né di prenderle, perché io se vedo che... Vabbè. Niente. Io non è che vado in giro a bullizzare gente, però ogni tanto qualche pugnetto mi scappa. Io non sono una che picchia, però se mi arrabbio moltissimo potrei farlo. A me non è mai capitato, perché a me non piace anche picchiare quindi le delle altre persone, anche se c'è un motivo, però preferisco usare, quindi discuterne e trovare una soluzione con le parole. Io di solito picchio solo se una persona mi provoca, ma molto, molto, molto forte. Per esempio, noi stiamo per usare la quando l'abbiamo già usata. Durante il cioè durante quando ci oppure come dopo. Ci sentiamo oppure dopo ma dobbiamo dire quando qualcuno ci ha noi cosa abbiamo subito, quindi tu fui anche cioè se tipo una persona ti dice tu gliela ritiri, lei ti dice gliela ritiri, dopo arriva la maestra che mi divide. Quello che mi ricordo per quando è successo, quella volta, perché non mi ricordo altre volte, ma mi sentivo strano, mi sentivo tutti i muscoli tesi, e quasi anche tremavo perché avevo delle anche conseguenze, che avevo creato tutto e mi sentivo molto strano, strano e anche il mio cervello era molto impazzito. Io quando ho avuto questa cosa mi è capitato che i muscoli erano più stanchi, tipo quando mi sveglio dal letto e oppure quando dovevo io fare questa cosa ero più energetico. Io non so, è una reazione istintiva e se è abbastanza lontano cerco di scappare, però in generale mi sento come più stanco, più i muscoli mi si irrigidiscono, non lo so, il cervello mi sembra più agitato, quindi vado un po' in panico. Allora, innanzitutto mi preoccupa, mi viene mal di pancia e se la persona è abbastanza vicina scappo, magari mi nascondo e magari certe volte sono anche un po' scombussolata e i muscoli tesi. Delle volte quando mio fratello mi fa un po'. Io mi arrabbio perché senza motivo, oppure se mi vuole far delle volte tipo scappo. Se io qualcuno mi sento arrabbiata e quindi se la persona che mi fa io divento più carica e lo rifaccio, però dopo che è finito tutto mi sento molto stanca e triste. A me fondamentalmente non mi è mai capitato, quindi non saprei che cosa rispondere, quindi non so dir niente. Se è per scuola o per strada, va in tilt, il cervello va in panico, e se invece è a casa, mi sento più a mio agio. Io invece inizio a tremare con il fiatone e non riesco più a muovermi. Io invece se mi capita, se la persona, quindi se io sono lontana cerco di scappare e magari anche a nascondermi. E poi mi viene... Non sempre, ma mi viene anche a me mal di pancia e con i muscoli tesi. A me un po' viene il panico e mi viene l'ansia, perché mi potrebbe succedere, mi potrebbe far qualsiasi cosa la persona che mi vuole picchiare mi fa. A me sì, non mi riesco, cioè vado in tilt anch'io e ho tutti i muscoli tesi e non so come reagire, cioè se scappare o stare lì a difendermi. A me sì, quando assisto a una di queste scene, non so, mi viene un po' da andare dalla mamma e dirgli: mamma, quei ragazzi là si stanno e il mio corpo, come dire, è spaventato. Se lo vedo nella realtà, quindi magari a scuola o magari mentre si sta giocando in generale, cerco di intervenire, ma se invece ci sono anche quelle scene tipo al telegiornale, io chiudo, spengo la TV, cioè chiudo gli occhi e spengo. Allora, io quando le vedo dal vivo mi preoccupo e anche lì mi viene un po' di mal di pancia perché sono preoccupata per le altre persone, anche se non posso fare niente, non le posso aiutare. Io se le vedo che si stanno facendo delle a vicenda, io divento un po' triste perché so che è brutto, e se sono delle mie amiche vado a chiedere che cosa sta succedendo perché magari le posso aiutare a risolvere. Io nelle persone che fanno in questo modo provo tristezza negli uomini che si devono per niente, la del mondo non serve mai. Fondamentalmente non mi capita quasi mai, quindi per questo motivo quasi niente. Se assisto a una scena di anche a me verrebbe da chiamare qualcuno e dire: quelli là si stanno, e se sono miei amici vado a vedere cosa sta succedendo, se no dico: quelli là si stanno. Se assisto a una rissa io ho paura e se c'è un adulto glielo vado a dire. Se vedo la scena dal vivo e mi preoccupo e quindi anche a me verrebbe di chiamare un adulto o anche la mamma, e quindi mi preoccupo e come se mi verrebbe ad aiutarli, però non posso. A me quando vedo una persona non mi succede niente, però cioè quando vedo una persona un'altra persona ma non sono io, non mi viene niente, però mi dispiace per la persona che viene perché so che fa male. Quando vedo tipo io sono a scuola e vedo dei ragazzi che si fuori dalla scuola, mi sento un po' triste per il ragazzo o i ragazzi che vengono perché non posso fare niente, e anche a me verrebbe da chiamare un adulto. E a me dipende, se sono per esempio tipo qua a scuola vedo dei ragazzini fuori dal cancello, non ho molta paura, e soprattutto se qualcuno lo chiama, tipo dico: maestra, ci sono dei ragazzini che si fuori dalla scuola. Però se mi capita magari tipo, non lo so, che mio papà mi dice: Fabio, scendi un secondo e puoi andare a controllare se c'è qualcosa tipo nella posta, e io vedo che di fronte a dove sono io ci sono dei ragazzi che si fanno, ho molta paura perché ho paura, cioè molta paura perché sì, ho paura che che lo, magari vengo coinvolto anch'io, mi vedono e quando vedono me che li ho visti, visto che è un po' che lo vado a dire a qualcun altro, mi prendono anche a me.